Ecco il dialogo nel padiglione. At the Italia Bella stand. Allo stand di Italia Bella. Ascolti. Allo stand di Italia Bella. Ciao Marina, siamo arrivati. Finalmente, ma che è successo? Siete in ritardo. Sì, hai ragione, ma è una lunga storia. È colpa di Andrea. Cosa? Marina, è falso! Sì, sì, come al solito. Ma... Marina, questa è la signorina Jenkins, Sara, della Top Qual. Salve, sono Marina, benvenuta. Grazie. Yes, Marina is right, they're late. And Lorenzo has to admit it. Sì, hai ragione. This is one of the many phrases in Italian where to have is used instead of to be, as in English. Another example is... Hai torto. You're wrong. Listen and repeat. Hai torto. Did you notice how Marina introduced herself to Sarah? Salve, sono Marina. She's being informal. She just says her first name and she doesn't say... Piacere. This doesn't mean she's being rude, only that she wants to establish a more informal contact.